Da quando tu non sei più vicino a me, ho vissuto giorni tristi senza te. Il mondo ormai giorni tristi senza te.